Assolutamente affetto da elucubrazione celebrale. Con ciò che non comporta le pena pagherò con il silenzio. Il suo plus della razza, qualsiasi cosa che io penso. La condanna evidenza, la lunga linea della vita evidenzia la fatica. L'amore nello scrivere una riga, ma ha preso l'arco della luce, capì che tutto era diverso, che tutto era immerso in quello che noi oggi chiamiamo falso. C'è l'effetto, il dato, il peso della mente lo devasta. Elucubrazione celebrale come forma di protesta. La violenza è come il giorno l'ho sbagliato, che ogni giorno spreco fiato. Al falso va recluso, va allenato. Nell'istante qui mi ascolti, sei d'accordo? Dico bene, dico giusto. Domani tutto a posto, domani resto io quello funesto, onesto. Il caso non è generalizzabile. Diagnosticami questa realtà psicolabile. Diagnosticami. Adesso girati dietro la schiena, c'è una scatolina. Dopo la mia rima, premi off e tutto torna come prima. Premi off e tutto torna come prima. Semplice, molto più semplice di quanto appaio. Hai il guaio, io che tu sei l'ago e io resto il pagliaio. È inutile che resto a casa a scrivere, la ciglia che mi spinge. Tu muovi il culo che io muovo la falinge. Fotti in cazzo a tutti se Marco Ferro piange. Se Marco Ferro piange, non una visione ma soltanto il ricordo. Tutto rammento, ad ogni ora ed ogni attimo vedere non m'è dato. Cazzo c'è intorno a me, è tutto nero. C'è chi la chiama sclero, dentro fuori l'utero nero. Dentro fuori l'utero nero, l'utero nero. L'utero nero, l'utero nero, l'utero nero. Motori immobili muovono il rammarico. Alzano, scendono, spostano il carico. Non ricordo quando è me nacque la ragione. Incomincia a capire, incomincia ad esistere. Conobbi gradualmente il mio essere. Un 10 senti e compresi, ma non ci siamo quasi. Ma non ci siamo affatto, questo è il concetto. Quando uno è strano tutto. Ma si capisce cosa c'è di strano. Io contestualizzo, sono io che vengo solo da una parte, da una parte. Non sta la mela sbagliata, la mela indicata. Ma non me ne compiaccio. L'uomo d'acciaio, l'uomo di merda, l'uomo di ghiaccio. E Marco Ferro, la tesi è lito terro. La tesi è lito terro. Non una visione ma soltanto il ricordo. Tutto un rammento, ad ogni ora ed ogni attimo vedere non m'è dato. Cazzo c'è intorno a me, tutto nero. C'è chi la chiama sclera.